prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Sì, siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo, ai ai ai ai. Che sulla terra sempre c'è una guerra, ma però per fortuna stiamo arrivando sulla luna, mentre qui c'è la fame, c'è la fame. Ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai ai ai ai ai ai. Quest'anno si dovrebbe mandare qualcuno sulla Terra, sono 200 anni che non ci andiamo. Chi vuole andare sulla Terra? Su Narvos? Io! Possiamo mandarne solo 10 su Narvos, accordatevi! Sulla Terra? Su Cristo? Anch'io! Possiamo mandarne solo 23 su Cristo, mettetevi d'accordo! Chi vuole andare sulla Terra? Nessuno per la Terra! Ma come facciamo? Come al solito non ci si va! È così da 200 anni, quest'anno dovremmo mandare qualcuno! A fare cosa? Ma niente di speciale, osservare, informarsi, vedere che cosa si può fare. Non si può fare su niente. Tutti gli altri pianeti ci insegnano qualcosa, come noi a loro, ma sulla Terra... È stato un tempo il mondo giovane e forte, odorante di sangue fertile, rigoglioso di lotte. Pretendeva molto, famiglie, donne incinte, sfregamenti, facce, gambe, pance, braccia. Familiare odore, Sai cosa penso? Questo aeroporto in fondo non è brutto, anzi. Ma che cosa dici? Oh, visto così dall'alto. Uno sale qua sopra e potrebbe anche pensare che la natura vince sempre, che è ancora più forte dell'uomo. E invece non è così. In fondo tutte le cose, anche le peggiori, una volta fatte, poi si trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di esistere. Fanno ste case schifose con le finestre in alluminio, i muri di mattoni vivi. Mi stai seguendo? Ti sto seguendo. I balconcini. La gente ci va ad abitare, ci mette le tendine, i gerani, la televisione. Dopo un po' tutto fa parte del paesaggio. C'è, esiste. Nessuno si ricorda più di com'era prima. Non ci vuole niente a distruggere la bellezza. Beh, ho capito, ma allora? E allora? Allora invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni, queste fissarie, bisognerebbe ricordare alla gente che cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla. La bellezza. La bellezza, è importante la bellezza, da quella scende giù tutto il resto. Piuttosto decente, un guardaroba che stava cominciando a diventare rispettabilissimo. Mi mancava poco per essere completo. Cazzo, e ora è tutto sparito. Tutto sparito. Sparito. Sai cos'è un piumino? Una trapunta. Una coperta. Solo una coperta. Perché due come te e me sanno cos'è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza, nel senso cacciatore e raccoglitore? No. Allora cosa siamo? Siamo consumatori. Esatto, siamo consumatori. Siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessiona. Omicidi, crimini, povertà, queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con 500 canali, il nome di un tizio sulle mie mutande, i farmaci per capelli, il Viagra. L'arredatrice... Poche calorie. Martha Stewart. Fanculo Martha Stewart. Marta sta lucidando le maniglie sul Titanic, va tutto a fondo, bello. Perciò vaffanculo, tu e il tuo divanetto a strisce verdi Oma Shab della Strin. Io dico, non essere mai completo, io dico, smettila di essere perfetto. Io dico, dai, evolviamoci, le cose vadano come devono andare. Per me, forse potrei sbagliarmi, forse è una terribile tragedia. No, no, sono solo oggetti. Non è una tragedia. Beh, hai perso un sacco di soluzioni versatili per il vivere moderno, amico. cazzo, hai ragione. No, non fumo. Sì, e poi la mia assicurazione coprirà tutto, perciò... Che c'è? Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono. Fa come vuoi, bello. Io sto cadendo. Precipito. Rapido, sempre più rapido. Verso il fondo. Precipito. E guarda come brillo mentre scendo. Precipito. Incandescente come una cometa risplendo. Precipito. Precipito. Come un fulmine a ciel sereno, sereno sarà e se non sarà sereno, tanto meglio. Che più spettacolare e coreografica se ti schianti la furia degli elementi. Giù, vertiginosamente giù, senza dimenticare di girarti verso le telecamere. Fare accesa ai fotografi, poi giù a pugni chiusi. Che all'impatto i sismografi non resteranno delusi. Precipita. Precipita! Ammira la mia aerodinamica, sono il vento! Giù come Icaro, giù come una meteora, giù come forse sei tu quando viene la sera. Più veloce giù cado, mi avvicino al suolo, mi sento sempre meno solo e sempre più libero di cadere giù. Precipitare, lo so che sto per farmi male, ma guarda come sono magnifico. Ora mentre precipito, precipito. Palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Thank you. Constantinople, now it's Istanbul. Now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, now it's Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul. Now Constantinople, so it's a day. In Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. Istanbul. Istanbul, even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul. Now Constantinople, now Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody.